pazziare, non so ciò che, non so ciò che mi pare. Corri qua, corri là, piglia questa, piglia quella, dammi soccorso tu, facciami a bella. Corri qua, corri là, piglia questa, piglia quella, dammi soccorso tu, facciami a bella. E canto di, e canto di saltare, s'apparecchia. Corri là, piglia questa, piglia quella, dammi soccorso tu, facciami a bella. Corri qua, corri là, piglia questa, piglia quella, dammi soccorso tu, facciami a bella.